Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette dieci minuti, inizia l'ultima puntata della settimana di Focus Economia, visto che domani è il 1° maggio. I temi di questa giornata economico-finanziaria per quello che riguarda la Banca Centrale Europea, ne parleremo ampiamente nella seconda ora del programma. Tassi fermi a zero, lancia anche una nuova liquidità, taglia alcuni tassi di interesse sul TLTRO3. Le maxi aste di liquidità, diciamo, tra giugno 2020 e giugno 2021, pronta ad aumentare, si detta dalla Lagarde, il QE, quindi l'acquisto di titoli di Stato da parte della Banca Centrale Europea, oltre a aumentare le dimensioni del QE, del quantitative easing di carattere pandemico. E poi ha lanciato l'allarme sulle conseguenze del coronavirus sull'economia. Devo dire che oggi la Francia ha diffuso il dato sul primo trimestre ed è pesante, anche perché il primo trimestre tiene dentro solo marzo come mese della pandemia e del lockdown, e quindi meno 5,8%, è la riduzione più forte da quando misurano in Francia il PIL trimestrale, quindi nel 1949, e ci vuol poco immaginare che quando arriverà il secondo trimestre questo record, ahimè, negativo verrà battuto, anche appunto 5,8%. Per quello che riguarda l'Unione Europea, 19, meno 3,8% nel primo trimestre, calo record del PIL. Anche qui attenzione, perché stiamo parlando sostanzialmente di un mese, forse un mese e mezzo, in cui già diciamo, metà febbraio c'erano stati degli effetti nelle relazioni anche commerciali con l'Asia, nel calo di alcuni turisti, ma insomma tutte le indicazioni sono di dati sul secondo trimestre ancora più pesanti. E di questo appunto parleremo. La variazione intanto per quello che riguarda per l'Italia è meno 5%, meno 4,9%. La variazione acquisita nel primo trimestre, cosa vuol dire? Vuol dire che se per caso il PIL facesse zero nei prossimi tre trimestri, comunque faremo meno 5. Siccome non sarà così, anche in questo caso ci attendiamo un dato ben superiore al meno 4,9%. Le ultime stime di Confindustria vanno dall'8 al 10% di calo. Comunque anche la BCE ha espresso una forchetta di un calo nell'area euro, che va tra l'8 e il 12%. Non è mai avvenuta in Italia una contrazione così forte nel 1955, come comunicato oggi dall'Istat. L'inflazione va a zero ad aprile, e te credo, tranne il corredo della spesa, che è rincarato in maniera marcata, più 2,6%, e qui dobbiamo notare che il fatto che gli italiani fossero in casa e che fossero aperti in primo luogo, se non soprattutto, i negozi di generi alimentari, i supermarket e quant'altro, ha portato a un aumento dei prezzi dei beni alimentari, così come di quelli per la cura della casa e della persona, più 2,6% sull'anno prima, un balzo che non si registrava dal febbraio 2017. La differenza tra l'andamento dell'inflazione generale e l'andamento dell'inflazione dei beni a maggiore consumo, quello che si chiama l'inflazione del carrello della spesa, non è mai stata così ampia. Ora, è normale che quando c'è molta richiesta di un bene i prezzi vadano in tensione. Non vorrei, ed è un dubbio retorico, che invece qualcuno avesse anche giocato sul fatto che gli italiani erano obbligati a stare a casa e a fare la spesa per aumentare in maniera artata, in maniera artificiosa, i prezzi, perché un dato così non si spiega. Prezzi di quello che viene venduto, ripeto, alimentare, cura della casa e della persona. Di questo parleremo. Parleremo però in apertura dello scontro che c'è a livello politico sia dentro la maggioranza, e cioè le dichiarazioni di Renzi, ma anche con l'opposizione, le dichiarazioni di oggi di Salvini, l'intervento di Conte alla Camera, ma soprattutto dello scontro che c'è tra governo, Stato e regioni sulle riaperture, e addirittura adesso siamo arrivati allo scontro tra regioni e comuni. I comuni, l'Associazione Nazionale dei Comuni ha accusato alcuni governatori e i governatori delle regioni di un eccesso di protagonismo. In Calabria si è arrivati all'assurdo per cui la governatrice Iole Santelli annuncia la riapertura dei bar e ristoranti dove sarà possibile consumare all'aperto per lunedì, ma moltissimi comuni e sindaci calabresi fanno ordinanze in senso contrario perché non vogliono, spinte anche dalle richieste che arrivano dal territorio, non vogliono riaprire. Devo dire che sono preoccupati anche alcuni ristoratori, non vogliono riaprire in quel modo, temono che questo possa portare in Calabria a un aumento dei contagi. Quindi abbiamo Stato centrale che con il ministro Boccia che ha detto attenzione, non ci obbligate a impugnare alcune delibere regionali qualora andassero contro il DPCM, perché non vogliamo, tra l'altro non ci sono neanche i tempi tecnici, però se alcune regioni dovessero andare in una certa direzione saremmo obbligati a ricorrere al TAR e alla consulta. E poi all'interno delle regioni i sindaci che dicono basta col protagonismo di alcune regioni e nel caso calabrese vanno contro la decisione della regione stessa. È delicatissima questa fase 2 o fase 1,5 come l'ho chiamata io, anche perché purtroppo tutte le indicazioni che ci arrivano, documentato tecnico scientifico e dai virologi, sono di un'attesa di una ripartenza dei casi. Anche qui ci sono delle indicazioni che non riguardano questo programma su come si muoveranno le 5 variabili per permettere alle regioni di continuare con le aperture dopo il 18 o invece, laddove vi fossero casi, tornare in alcuni casi, in alcune aree specifiche, a un lockdown. Allora, 349-238-6666 per sms e whatsapp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio24. Oggi però torneremo anche a fare il punto su come vanno i prestiti bancari. Sapete che è un chiodo fisso, i 25.000 euro con garanzia al 100% fino appunto al 25% del fatturato, dei ricavi. Gli 800.000 euro con 10% di garanzia dei confidi e i 5 milioni anche lì dove possono entrare i confidi, per capire se a distanza di più di 2 settimane si stia un po' oliando la trasmissione di questi prestiti, soprattutto sui 25.000 euro, o resti ancora in alcuni casi vischiosa. Dicevo, 349-238-6666 per sms e whatsapp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, la diretta su Facebook. Partiamo subito dalla borsa. Borsa oggi prende atto sia delle stime sul PIL che insomma vanno a vendere prima del 1° maggio. Non ci sono spunti enormi oggi di borsa, meno 1,80% Milano, meno 2% Parigi, meno 2,1 Francoforte, Londra meno 3,20, è la peggiore Londra in questo momento, il Dow Jones perde lo 0,90%, tra i titoli bene Italgas più 4,70, Era più 1,90, Pirelli più 1,1, Saipem più 0,80, Campari più 0,60, i cali non sono pesantissimi ma ci sono, di Assorium meno 4,5, Unicredit meno 4,30, BIP meno 4,30, Stima Cretonics meno 4,20, poi Intesa perde il 4, CNH al 3,60, Mediobanca al 3,5, Banco BPM meno 3% come Mediolanum, Eni perde il 2,5 come Poste Italiane, Recordati e Buzzi Unicem. Qualcuno mi chiede ma non c'è stato l'effetto della BCE? Beh, la BCE ha lasciato i tassi invariati, c'è stato un effetto negativo delle stime della BCE sui cali delle economie. Quando la BCE ti dice che i cali viaggeranno in quell'ordine di grandezza, certifica sostanzialmente la caduta economica dell'area euro mai vista, ha detto la Lagarde, tra il 5 e il 12%. Vorrei sapere chi farà il 5, perché le stime che vedo io sugli altri sono tutti 7, 8, 9%, però evidentemente qualcuno calerà di meno, anche anche se il 5% in periodo tra virgolette normale sarebbe stato considerato un crollo mai visto del PIL. Io ricordo che il 5% fu quello, insomma, che si perse nel 2008 e si parlò appunto della crisi finanziaria, era una crisi finanziaria, ci mancherebbe. Qui stiamo utilizzando il 5% di crollo del PIL come un dato buono, perché si va dal 5 al 12%. Dunque, Barisone dica che per i 25.000 euro vogliono un tasso dell'1,13%. Sì, l'abbiamo detto in questi giorni, abbiamo fatto con vari istituti, Intesa San Paolo, ICREA, ieri al Popolare di Sondrio. Sì, il tasso più o meno è l'1,30%. Capito? Forse si poteva allungare il prestito, però i primi due anni paghi solo gli interessi, poi lo devi ridare. Mi sembra un tasso devastante, posso dirlo, cioè che è un tasso, onestamente, per 25 euro dati appunto con tutta la garanzia dello Stato, non mi sembra una cosa devastante, fermo restando appunto che i primi due anni c'è la moratoria, quindi paghi solo gli interessi e il capitale, cioè i 25.000 euro inizi a ridarli dal terzo anno in poi, e quindi a spanne, se hai chiesto il massimo che puoi chiedere come garanzia dello Stato, che sono... appunto 25.000 euro, dovrà ridare tra i 6.000 euro più o meno all'anno dal terzo anno in poi. Sì, molti mi stanno scrivendo che hanno notato un aumento dei prezzi, devo dire la verità, anch'io, e come sempre anche nell'ortofrutta, non che io valga come indice statistico, ma vado a fare la spesa, l'ortofrutta e la verdura, e questo lo vediamo spesso quando ci sono problemi di questo tipo, è cresciuto moltissimo. E anche i prezzi, al supermercato. Ma poi non lo diciamo noi, non lo dicono gli ascoltatori, lo dice oggi l'Istat. Non si è mai visto uno scostamento così forte tra l'inflazione generale e l'inflazione dei beni da carrello della spesa. Lo spread è a 235 punti, Angela Merkel ha già detto che la Germania e l'Europa stanno con forza dalla parte dell'Italia. Vari ospedali tedeschi hanno accolto pazienti italiani, il governo federale ha mandato aiuti sanitari, l'ho scritto Angela Merkel in una risposta alla comunità di Sant'Egidio. E la Gentiloni ha fatto sapere che la commissione sorveglierà la coerenza delle spese del MES, cioè il MES senza condizioni, però giustamente, a mio avviso giustamente, la commissione va a vigilare che tu spendi i soldi che dovessi chiedere per il MES fino al 2% del PIL per l'emergenza sanitaria diretta e indiretta, che vadano utilizzati per quello. Insomma, questo non mi sembra però una grande, come si dice adesso usando un italiano un po' forzato, una grande condizionalità o condizione. Il BTP Italia a 5 anni torna a essere offerto dal 18 al 21 maggio avrà un premio fedeltà, cioè che passa all'8 per 1000 per chi acquista il titolo all'emissione e lo tiene fino a scadenza, cioè fino al 2025. Sarà dedicato interamente ai risparmiatori dal 18 al 20 maggio. Cedole indicizzate all'inflazione più il pagamento del recupero dell'inflazione maturata nel semestre, rimborso unico a scadenza. Non sarà applicato nessun tetto massimo, quindi a differenza di quanto avviene con gli istituzionali per i risparmiatori. E al sottoscrittore dell'emissione, come in passato, non verranno applicate commissioni al collocamento, mentre sul rendimento del titolo si continuerà a applicare l'attuale tassazione agevolata sui titoli di Stato, cioè al 12,5%. Il premio fedeltà vuol dire appunto che raddoppia, se, passando all'8 per 1000, se tu tieni il titolo per 5 anni, cioè l'obiettivo è non andare poi a venderlo sul secondario. Come ha spiegato il capo della direzione del debito pubblico al Ministero dell'Economia, Davide Iacovoni, oggi a Deborah Rosciani e Mauro Meazza a Due di Denari. Noi abbiamo delle buone aspettative, anche la scadenza che è stata scelta, lo ricordo che è una scadenza di 5 anni, è quella che in questo momento sembra riscontrare un buon interesse da parte del mondo dei risparmiatori retail. È un momento di difficoltà per tante famiglie e chiaramente questo strumento noi lo proponiamo a tutti, ma è chiaro che sarà importante che chi ha delle maggiori disponibilità in questo momento, delle condizioni economiche e patrimoniali più solide, ecco, chiaramente ci si aspetta da costoro incontra questo strumento rispetto chiaramente ad altre situazioni dove invece prevalgono delle difficoltà di tipo finanziario. In Italia a livello privato la disponibilità di ricchezza di tipo finanziario è molto ampia, nonostante tutte le difficoltà, e quindi l'appello è anche a queste grandi gestioni patrimoniali di arrivare su uno strumento che peraltro comunque garantirà una, come dicevamo prima, una remunerazione sicuramente interessante. Adesso apriamo la pagina di politica economica, diciamo così, anche di scontro istituzionale con le regioni. E in primis è l'intervento del Presidente del Consiglio Conte alla Camera. Se il virus persiste, il rischio del calo del PIL italiano è del 10,4%, prevista una crescita di quasi il 5% nel 2021, e una previsione che sconta appunto una caduta del PIL nel secondo trimestre del 15%. La riduzione dell'intensità dell'emergenza sanitaria, una tendenza che ci auguriamo possa confermarsi quindi nelle prossime settimane e nei prossimi mesi, porta con sé l'intensificarsi, ormai lo stiamo sperimentando, anche dell'emergenza economica, dell'emergenza sociale. Il DEF per il 2020, approvato dal Consiglio dei Ministri il 24 aprile scorso, aggiorna il quadro macroeconomico del Paese alla luce dell'impatto del Covid-19 sull'attività economica e dalla misura della gravità dello scenario che abbiamo di fronte. La previsione ufficiale del PIL per il 2020 viene abbassata a un aumento dello 0,6% previsto nella nota di aggiornamento al DEF dello scorso settembre a una contrazione significativa dell'8%. È una previsione che sconta al momento una caduta del PIL di oltre il 15% nel primo semestre e che tiene conto di una possibilità di rimbalzo nella seconda metà dell'anno, seguita da una crescita del PIL del 4,7% prevista per il 2021. Il DEF stima inoltre uno scenario di rischio ulteriore che non possiamo escludere, in cui l'andamento e la durata dell'epidemia sarebbero più persistenti, portando a una contrazione del PIL fino al 10,6% nel 2020 e una ripresa più debole nel 2021, pari al 2,3%, quindi con maggiori, più pesanti aggravi per la finanza pubblica. Così il Presidente del Consiglio, e poi nel prossimo decreto legge, quello sulle misure economiche, riprenderà tutti i provvedimenti del Cura Italia e li prolungherà e li rafforzerà. Quindi quello che dovrebbe portare il bonus dei 600 euro a 800 euro per il mese di aprile. Ci saranno 25 miliardi per le misure di sostegno al lavoro e sostegno al reddito, come cassa integrazione, indennizzi per COF e badanti. 25 erano usciti nel decreto, diciamo, Cura Italia, quello riferito a marzo. 25 usciranno per quello che si è riferito ad aprile. Qualcuno mi dice: ah, ma guardate che sono 50 miliardi in due mesi. Cioè stiamo parlando di due manovre economiche in due mesi. Cioè, di solito la manovra economica era di 25-30 miliardi all'anno, quindi abbiamo fatto due decreti da 50 miliardi in due mesi. Non sarà sicuramente molto o non sarà abbastanza, però attenzione, perché occorre anche avere il senso delle proporzioni. Non è vero che si stia facendo manovre così all'acqua di rose, come si può dire da qualche parte. È gente che non ha mai visto i conti pubblici italiani, non ha mai commentato una manovra. Qui stiamo facendo l'equivalente di quanto abbiamo messo in due anni di fila di manovra economica per due mesi, e manca ancora maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre. No, dico calmi. E poi nel prossimo decreto 15 miliardi per le imprese. Allora sentiamo da questo punto di vista sia la parte che riguarda i 25 miliardi di sostegno al reddito che la parte che riguarda i 15 miliardi per le imprese. Il primo decreto legge conterrà ulteriori misure di sostegno a lavoratori e imprese per continuare ad accompagnarli nella fase di transizione verso la riapertura delle attività economiche. In primo luogo il decreto legge riprenderà tutti gli interventi del cosiddetto Cura Italia, rafforzandoli e prolungandoli nel tempo. Saranno prorogate con impegno finanziario di circa 25 miliardi, le vigenti misure di sostegno al lavoro, all'inclusione e al reddito, quali cassa integrazione, indennità per il lavoro autonomo, due mensilità aggiuntive dei sussidi di disoccupazione, gli indennizzi per colf, badanti, al fine poi di assicurare alle imprese, ai professionisti la riscossione dei crediti vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni per forniture, appalti e prestazioni professionali, saranno sbloccati 12 miliardi di euro attraverso l'anticipazione di liquidità della Cassa Depositi e Prestiti in favore di regioni, province, città metropolitane, comuni ed enti del Servizio Sanitario Nazionale. Tra gli interventi di supporto ai settori produttivi più colpiti dall'emergenza è allo studio anche uno schema di finanziamento a fondo perduto per le piccole imprese, che potrà essere direttamente legato alla perdita di fatturato. Per le PMI al di sopra di una certa soglia sono poi allo studio interventi volti ad assorbire parzialmente le perdite con capitale pubblico che possa trasformarsi in sostegno a fondo perduto attraverso erogazione di liquidità o schemi di agevolazione fiscale. Complessivamente destineremo a questi interventi all'incirca 15 miliardi. Allora, qualcuno mi scrive che non sono ancora arrivati i 600 euro. Io qui ho visto processare un'infinità di... adesso vi darò il dato su chi sta, fonte INPS, non fonte mia, chi ha ottenuto i 600 euro. Allora, adesso io dico una cosa, poi andiamo sul meteo, perché qualcuno, ti facevo più serio. Allora, vediamo di capirci. Le critiche le abbiamo fatte anche noi al governo Conte, le abbiamo fatte anche di carattere comunicativo domenica scorsa e due settimane fa, e alcune indecisioni, tutto quello che volete. Io però adesso inviterei tutti a un paio di riflessioni. La prima, non è che possiamo ragionare come se fossimo fuori dall'emergenza sanitaria. Qui tutti ci dicono che le prossime due settimane saranno fondamentali per capire quanto, non se, perché tutti danno per scontato che crescerà il tasso, se ascolti i virologi, ma quanto aumenterà il numero di contagi e come si riuscirà a gestire. Tutti, ma anche in Francia, anche in Spagna, stanno facendo questi calcoli, non è che siamo solo in Italia. Lo dico perché va benissimo, Renzi ha detto, glielo diciamo in faccia, è stato molto bravo a rassicurare gli italiani, il punto è che nella fase 2 non basta giocare su paura e preoccupazione, c'è una ricostruzione da fare che è devastante, richiede la visione e scelte coraggiose. Dia un occhio in più ai dati Istat, ha detto Renzi a Conte, o noi non saremo al suo fianco. Se sceglierà la strada del populismo non avrà al suo fianco Italia Viva. Non c'è ultimatum, stiamo facendo politica, ha detto poi Renzi. Conte ha detto non c'è nessun ultimatum, Renzi ha chiesto di fare politica ed è quello che stiamo facendo, quindi non c'è nessun ultimatum. Salvini ha detto la Lega resterà in aula sino a che non si danno risposte concrete agli italiani, basta chiacchiere, basta parole. E per carità, fa tutto parte della dialettica politica. Vorrei solo che questo paese, dove noi sappiamo che ci sono 60 milioni quasi di commissari tecnici della nazionale, o almeno la metà i maschietti quando gioca la nazionale, vorrei però anche un pochino di calma ogni tanto, perché non me ne frega nulla di difendere Conte. Lo abbiamo criticato, ripeto, altre volte quando i provvedimenti ci sono sembrati troppo timidi o non abbiamo capito la logica di alcuni provvedimenti. Però non deve essere facile, non è una lacrimuccia a favore di Conte, ma possiamo riconoscere che non è facile per nessuno in questo momento, né per Conte, né per Sanchez, né per Macron. Lasciamo star Johnson e Trump, per carità di patria, mi limito ai tre paesi, diciamo, del sud Europa che hanno un tasso di mortalità e di diffusione del virus molto simile. Non è facile per nessuno. Macron ha difficoltà anche nella popolarità, Sanchez pure. Cioè, non è facile in questo momento governare un paese, tra l'altro come l'Italia, pieno di burocrazia, di evasione fiscale, di furbetti, quant'altro, mettendo risorse di questo tipo con il debito che abbiamo. Ora, io non dico che bisogna stringersi attorno al Presidente del Consiglio perché il dibattito politico è più che sano, va bene così, ma neanche, come vedo fare da alcuni colleghi e anche alcuni politici, sparare ad alzo zero. È facile quando tu sei all'opposizione o sei sul divano o sei dall'altra parte, dire sbaglia, basta, state attenti, perché se per caso fra una settimana o 10 giorni ci troveremo con dei focolai, poi dovrete rispondere, come è già avvenuto, delle apriamo, basta con le limitazioni, le libertà individuali. Ho capito, chi cavolo è contento di vivere così? No, perché ogni tanto, no, sembra che adesso delle volte il coronavirus l'abbia creato il governo. 349-238-6666 per sms e whatsapp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, la diretta su Facebook, e non è il Liberi Tutti, è semplicemente critiche, ma se possibile costruttive, non come si fa con la partita di calcio stando sul divano. Meteo. Focus Economia. Ora 17:38 minuti, non avevo dubbi che sarebbero arrivate alcune approvazioni, altri insulti, lecchino del governo, braccio armato di Casalino. Questa è una cosa. Va bene, lecca di qua, lecca di là. Guardate, se avessi detto che invece il governo doveva dimettersi, non ero più un lecchino, ero probabilmente uno con la schiena dritta, questo dimostra. Ma guardate, adesso andiamo allo scontro con le regioni e tra regioni e comuni. Ma la lotta politica e il dibattito la rifaremo, l'avremo, non c'è, voglio dire, speriamo tutti che si attenui questo virus, si tornerà a parlare, e ben venga la lotta politica, le proposte. Su alcune cose io ho dato anche ragione molte volte all'opposizione. Non è un avere, diciamo, il paraocchi. Ritengo in questo momento sbagliato e delle volte anche molto specioso chi si mette a fare le pulci al governo senza mai premettere che al di là dell'emergenza sanitaria mai vista c'è un problema in questo paese di tenuta dei conti pubblici mai visto prima. Allora, le proposte costruttive ben vengono. Se la proposta deve essere riaprite tutto, io invito alla calma, perché spero e mi auguro di essere smentito dai fatti, e che dal 4 al 18 il comportamento degli italiani, le precauzioni prese e tutto quanto porterà a un aumento risibile, se non nullo, dei nuovi contagi. A quel punto, adesso lo ascoltiamo, Conte ha anche detto... E potremo anticipare alcune aperture da questo dopo il 18 in base all'andamento. Ma invito tutti un po' alla prudenza. Sento delle opinioni come se il coronavirus non esistesse. Allora, INAIL, ecco, 7.800.000 lavoratori sospesi con il lockdown, molti lavorano con lo smart working. Comunque, per quello che riguarda l'Istituto Superiore della Sanità, ha detto che aprendo edilizia, manifatturiero e commercio, come previsto dal 4 maggio, l'Istituto Superiore di Sanità si attende che l'indice di contagio R0 vada sopra la soglia epidemica, cioè sopra il livello 1. E Conte ha detto: in certi momenti le nostre vene tremavano perché non pensavamo di riuscire ad arrestare la curva del contagio. Dobbiamo ringraziare i nostri cittadini per la prova che stanno offrendo. Il governo non può assicurare ora il ritorno alla normalità. Se però vi saranno, al termine delle 2 settimane, quelle del DPCM, dal 4 al 18, avremo un quadro più chiaro e potremo procedere ad un ulteriore allentamento delle misure contenitive, se nei prossimi giorni la curva dei contagi non dovesse crescere. E poi è entrato nel tema del rapporto con le regioni, iniziative improvvide degli enti locali e sono in contrasto con le norme nazionali, quindi sono da considerarsi a tutti gli effetti illegittime. E voglio ricordare, nello spirito di collaborazione che questo governo ha sempre costantemente adottato con tutti gli enti locali, che iniziative... che allo stato delle previsioni vigenti, iniziative di enti locali che comportino l'introduzione di misure meno restrittive di quelle disposte su base nazionale non sono possibili, perché in contrasto con le norme del decreto legge numero 19 del 2020, quindi sono da considerarsi a tutti gli effetti di legge illegittime. E il sottosegretario del Ministero degli Interni, oggi ospite di Simone Spezia e Maria Latella 24 mattina, Achille Variati, ha detto: è probabile che arrivi una diffida nei confronti della Calabria, che aveva annunciato da lunedì si potrà utilizzare bar e ristoranti all'aperto, quindi andando ben oltre, a mio avviso, anche contro il DPCM. Comunque, Variati. Qui non si tratta tanto di gerarchia delle regole, però insomma bisogna stare dentro un filo, altrimenti i cittadini non capiscono più niente, non capiscono perché da una parte si può, dall'altra parte non si può, quindi è probabile che possa esserci una difficoltà. E sempre ospite questa mattina di 24 mattino anche Alessia Morani, sottosegretario allo sviluppo economico, sempre su quello che è successo in Calabria. Qui devo fare una brevissima premessa, perché dopo l'annuncio della governatrice Santelli, in realtà si sono rivoltati i comuni calabresi, come spiegavamo. Catanzaro ha confermato le chiusure al 3 maggio firmando un'ordinanza. Vi sono tanti, Lamezia Terme che ha annunciato la non applicazione dell'ordinanza della regione, così come altri comuni. E il sindaco di Reggio, cioè Catanzaro e Reggio, due principali città, ha sospeso l'ordinanza della regione. Quindi lo scontro si è spostato da regione a comuni dentro la Calabria, almeno diceva Alessia Morani, sottosegretario allo sviluppo economico, questa mattina 24 mattino. E poi io penso quello che sta succedendo in Calabria, e cioè la presidente Santelli che ha deciso che oggi riapre bar e ristoranti all'aperto, senza un protocollo di sicurezza, prendendosi una responsabilità enorme, perché se dovessero aumentare i contagi, a quel punto le responsabilità sono chiare. Capite bene che se si utilizza il virus in termini politici, cioè se il virus diventa un terreno di battaglia politica, diventa davvero molto difficile per tutti gestire questa situazione. E poi il presidente dei comuni italiani, Antonio De Caro, ha detto oggi: i sindaci sono stanchi, lui è il sindaco di Bari, del protagonismo dei governatori. Se volete una sfida da parte degli enti locali, noi l'accettiamo. Possiamo iniziare mettendo ordinanze che vanno a disapplicare le ordinanze regionali. Zai ha detto: il Veneto non è mai andato oltre di PCM. Fontana dal 4 maggio ha detto: noi non proporremo delle ordinanze che vadano ad allargare quanto previsto dal DPCM, elimineremo le restrizioni in più che avevamo messo. Riapriamo in Lombardia alberghi, uffici professionali, mercato all'aperto e chiuso, ma solo per i generi alimentari. Andremo a allargare solo dove avevamo ristretto in più rispetto alla legge dello Stato. Allora, Barbara Fiammeri, del Sole 24 Ore, voce e firma della politica del nostro gruppo. Buonasera, Barbara. Buonasera. No, io sospiro perché già era abbastanza inguardabile lo scontro regioni con il governo centrale. Mo siamo arrivati anche ai comuni Lamezia, Catanzaro, Reggio Calabria, che hanno fatto delle ordinanze per disattivare quanto deciso dalla Santelli, che oggi è diventato un po' il caso, mentre mi sembra che Zaia abbia gettato più acqua sul fuoco. Barbara. Sì, è esattamente così, Sebastiano, nel senso che è vero che sta diventando uno scontro politico-istituzionale e è molto rischioso, perché il protagonismo dei governatori, il protagonismo dei sindaci, dei ministri, dei titolari delle task force, cioè i cittadini si sono dimostrati molto più responsabili e attenti di quanto stiano manifestando alcuni politici, insomma, questo certamente, anche purtroppo alcuni rappresentanti istituzionali, perché che hanno responsabilità di governo. Allora, è evidente che fin dall'inizio noi sappiamo che c'è una differenziazione sul territorio nazionale, cioè che la Lombardia non è la Calabria o la Campania, lo sappiamo da tempo. Che cosa ha deciso il governo? Poi se questo sia giusto o meno, anche i nostri ascoltatori potranno da soli deciderlo. Ha deciso che fino al 17 maggio, perché questo nuovo DPCM scadrà il 17 maggio le misure che sono contenute nel DPCM, saremo tutti uguali, cioè vediamo come va la curva epidemiologica nei prossimi 15 giorni, in sostanza è questo. Se riusciamo a tenerla sotto controllo, piano piano si riaprirà e lì sì ci potrà essere, questo è quello che ha detto anche ieri il ministro per gli affari regionali Francesco Boccia alle regioni, da lì sì, dal 18 quindi ci potrà essere una differenziazione per territori, ma solo da allora. È chiaro che la preoccupazione è forte, pensiamo agli stessi governatori, presidenti delle regioni meridionali, la stessa Santelli che dice chiudo i confini. È come quella che però vuole aprire i bar e i ristoranti all'aperto. E apre i bar e i ristoranti, ma se, faccio un esempio, arriva qualcuno dal nord, dalle aree che sono ancora con un tasso di contagio maggiore e poi si va a prendere il caffè nel bar di Reggio Calabria o di Catanzaro, di dove sia, cioè, ma è una contraddizione questa, no? È evidente, anche perché non è che si possono mettere il filo spinato alle stazioni, no, ma io, scusami, per non far scendere le persone. Io aggiungo persone. Un'altra cosa, il decreto, quello che va dal punto dal 4 al 18, 17, prevede il ricongiungimento di tutti quelli che sono residenti in Calabria o in Sicilia, in Puglia, che erano magari rimasti bloccati in Lombardia e nelle regioni del nord, penso agli studenti che hanno la residenza lì. Quindi tu avrai comunque, e mi dicono che già i treni verso la Campania siano giustamente prenotati, lo prevede la decisione del governo, e quindi avrai comunque un trasferimento, anche se le regioni possono immaginare un'ipotetica chiusura, di persone da aree dove c'è una presenza più forte del contagio a aree dove è meno presente, tipicamente. Ma maggior ragione, quindi maggior ragione in questo momento le riaperture sono pericolose, ma guardate, anche in quelle regioni in cui il contagio è rimasto basso. Sì, ma la cosa che mi ha fatto impressione, Barbara, è che questa obiezione non sia venuta da Boccia, dal governo o dai giornalisti, sono i comuni grandi, Catanzaro, Reggio Calabria, Lamezia, che hanno detto noi non applichiamo l'ordinanza regionale, e questo tradice lunga sui timori che hanno, perché hanno paura, che hanno, ma i sindaci. Scusate, è come, adesso faccio una domanda banale, però io penso che ciascuno di noi sia in grado di dare una risposta. Si sta discutendo, no, su ristoranti aperti, quando i bar, i parrucchieri, tutto giustissimo, ma alla fine poi, quando, al di là di quello che saranno le decisioni, le date in cui avverranno queste riaperture, ma immaginiamo che le pizzerie, parlo di Roma perché è la città dove vivo, al centro di Roma, che sono piene di gente, magari con l'aria condizionata, saranno piene perché il governo ha detto che le apre? Io penso che avranno delle grosse difficoltà, mentre probabilmente saranno prese d'assalto chi ha dei dehors, delle terrazze, oppure gli stabilimenti balneari che hanno i ristoranti all'aperto. Però, ma questo è evidente, le persone continuano ad avere paura. Perché, no, ma questo devo dirlo che lo vediamo anche, io citavo prima la Francia, in Francia è uscito un sondaggio ieri pubblicato dalle Figaro in cui il 64% dei francesi erano a favore di misure restrittive, ancora più restrittive, cioè qui si sta lasciate stare le attività produttive in questo momento, le manifatturiere, perché quelle riaprono il 4, l'altra cosa è chiaramente il commercio al dettaglio, anche lì sappiamo che alcuni riapriranno il 18 tranne ristoranti e bar, ma appunto Conte oggi è aperto, vediamo come vanno i contagi, casomai potremmo anticipare alcune aperture. Però Barbara, torniamo all'elemento anche di carattere politico, perché questo si innesta, lo scontro comuni-regioni, si innesta invece su quello che è un braccio di ferro. Qui c'è anche l'Alto Adige, con Pascio ha detto noi vogliamo tirare dritto. Ho capito bene o il ministro Boccia gli ha detto guarda, noi non abbiamo nessuna voglia di impugnarla perché mancano i giorni, sono troppo pochi, ma non ci obbligate ad andare davanti al TAR e alla Consulta? Sì, è esattamente così, Sebastiano, con una differenziazione, cioè Boccia ha detto anche perché, come dicevi tu giustamente, mancano pochi giorni, non è che vanno a impugnare l'ordinanza, per esempio, di Zaia, che dà la possibilità degli spostamenti all'interno della regione, che tanto entra in vigore case. Il 4, ok? Quindi non avrebbe senso impugnare una, in questo, a oggi che siamo al 30 un'ordinanza di questo tipo. Diversa è l'ordinanza della Santelli su bar e ristoranti, perché lì la scadenza, come abbiamo visto, dovrebbe essere il 1° giugno, la data di ripartenza, quindi quella sì che è, appare a tutti gli effetti una violazione di quelle che sono le regole generali del DPCM e quindi probabilmente alla fine quell'ordinanza sarà impugnata. Però tendenzialmente, diciamo, il governo non vuole uno scontro con le regioni, ma vuole anche evitare, e questo io lo trovo abbastanza logico, il ognuno fa come vuole, perché l'ognuno fa come vuole è pericolosissimo, perché siamo tutti comunque legati. L'hai detto tu prima, insomma. Allora, vorrei capire l'ultima cosa, e qui vengo più alla nota politica, prima di andare invece poi alla parte che riguarda anche il mondo bancario. Da che cosa nasce questo scontro? Allora, tu citavi giustamente una cosa che tutti noi abbiamo visto e abbiamo anche detto, e cioè ci sono regioni che hanno il disco verde già come numero di contagi R con zero, regioni che hanno un disco arancione, regioni come la Lombardia e Piemonte che hanno un disco rosso. E questo è una cosa. Qual è l'elemento politico però che spinge ad esporsi così tanto alcuni governatori, secondo te? Con il rischio che se dovessero poi ripartire i contagi invece dovresti fare anche una retromarcia che abbiamo già visto nei mesi scorsi. Prego. Allora, in parte credo che sia proprio una scommessa personale, e dall'altra anche la difficoltà di gestire come dire, il pressing delle categorie, che è molto forte, giustamente, io capisco. È chiaro che ieri è avvenuto però un fatto che non era mai avvenuto in questa fase, in questa emergenza, cioè noi abbiamo visto che non sono stati i governatori in generale a come dire, contestare il governo, ma sono stati i governatori del centrodestra, quindi che hanno scritto al capo dello Stato, oltre che al Premier e allo stesso Boccia. E quindi, e per questo dicevo all'inizio, dando un connotato politico che è un po' sinceramente preoccupante nel momento in cui lo fanno degli esponenti delle istituzioni, cioè perché le situazioni peraltro tra la Calabria e la Lombardia sono molto diverse e quindi è difficile anche trovare una linea comune, perché le preoccupazioni che ha Fontana non sono quelle di chiudere i confini, ma di evitare che il contagio possa nuovamente riprendere, mentre il problema della Santelli è quella che i lombardi calabresi diciamo non ritornino a casa, quindi hanno anche delle diversità di interessi che invece però vengono, come dire, annacquate, cancellate dall'essere siamo i governatori del centrodestra. Questo secondo me è sbagliato il fatto che comunque in questo momento non credo che sia opportuno una divisione di questo tipo, cioè a livello istituzionale. No, ma è chiaro, adesso poi vedremo. Io mi ho invitato in maniera più pragmatica, al di là della politica, tutti a stare molto attenti, perché ripeto, fra 2 settimane faremo un bilancio, anche un po' prima, però attenzione, perché già non vorrei si ripetessero, lo dico veramente facendo 1000 scongiuri, certi facili ottimismi che abbiamo visto a fine febbraio, inizio marzo, che hanno anche creato grosso imbarazzo in alcuni sindaci. Non è vero che sono solo del centrodestra, anche i Gori del PD o anche Sala o anche Fontana, che hanno minimizzato come governatore della Lombardia e poi hanno dovuto ammettere di avere sbagliato, e viva Dio che l'hanno fatto. Per cui invito tutti quanti un po' di prudenza, poi magari il 14 o il 13 avremo dei dati così belli che io mi auguro da poter anticipare, soprattutto nelle regioni del sud, alcune riaperture, per esempio degli esercizi commerciali. Ci mancherebbe. Grazie anche a Barbara Fiammeri del Sole 24 Ore. Adesso andiamo sulla borsa. Meno 2,1% Milano, meno 2,12% Parigi, meno 2,20% Francoforte e meno 3,5% Londra, in quella che si avvia la chiusura. Dow Jones meno 1,36%, poche differenze nel resto. Invece, restando in tema di finanza, ma non riusciremo, anche perché la borsa la riaffronteremo nella seconda ora quando commenteremo la Banca Centrale Europea. Ringrazio per averci raggiunto di nuovo in collegamento, come avevo promesso, per fare un bilancio su come stiano andando i prestiti alle imprese, Gaetano Stio, presidente del gruppo NSA, che fa di lavoro mediatore creditizio per le imprese italiane, il primo in Italia. Buonasera Stio. Buonasera Parisoni. Allora, i dati presentati intanto ieri in commissione d'inchiesta da Stefano Cappiello, che è il direttore generale della Direzione del Sistema Bancario e Finanziario del Ministero Economia e Finanze. 1.300.000 domande alle banche per un totale di 140 miliardi di euro di prestiti. Attenzione, di questi però qui ci sono anche le moratorie sui prestiti già esistenti. Allora, secondo l'ABI, l'Associazione Bancaria Italiana, le domande al fondo di garanzia sono state 56.858 per un controvalore di 4 miliardi di euro. Di queste 56.000 domande, 37.400 sono per i finanziamenti sotto i 25.000 euro, tra l'altro raddoppiate queste in un solo giorno. E poi per quanto i numeri siano positivi, la Banca d'Italia ha detto: attenzione, lo Stato rischia comunque esborsi significativi, perché se le insolvenze andranno incontro al 10%, tu hai dato la garanzia alle banche che quei soldi li metti tu sui 25.000 euro il 100%, sugli 800.000 euro il 90%, il 10% i confidi e anche sui 5 milioni. Prima del GR24, poi la riprenderemo. Mi dia la sua valutazione alla luce dei dati diffusi tra ieri e oggi dall'ABI e dal Ministero Economia e Finanze. Guarda, io mi sono fatto un conto, come diceva lei prima, negli ultimi giorni sono arrivate veramente una gran quantità di domande. Se pensiamo solo a quelle fino ai 25.000, che sono quelle su cui c'è forse la maggiore pressione politica sulle banche, anche ovviamente istituzionale, ma sono il sabato e domenica sono arrivate 8.700 domande. Se solo sui 25.000 euro. Se si procede di questo passo significa circa 4-5.000 domande al giorno. Per fine anno circa più di 1 milione di domande solo su questa. Beh, su però questa non dobbiamo misura. Immaginare che queste siano più alte come domande nei periodi in cui gli esercizi commerciali, artigiani, quant'altro sono chiusi, non riescono a fatturare. Beh sì, però diciamo che in questo momento quello che devono fare è semplicemente fare una richiesta di finanziamento, con un finanziamento da 25.000 euro che è la misura massima. Un tasso al di sotto del 2%, un preammortamento di 24 mesi, significa che per i primi due anni pagano 42 euro al mese di rata. Dopo ovviamente arriverà la rata. Però vi facevo il calcolo che se tu hai chiesto al massimo 25.000 euro, 100.000 euro quindi di ricavi, avrai da pagare dal terzo anno in poi 6.000 euro all'anno in tutto sul tuo prestito. Resti con noi Stio, perché adesso il GR24, poi i dati della Protezione Civile e poi torniamo da lei prima di passare a Francoforte con le decisioni della Banca Centrale Europea. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Focus Economia. Sette minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Vorrei continuare a sentire la valutazione di chi rappresenta il primo mediatore creditizio per le imprese italiane, quanto ha fatturato, e quindi gruppo NSA con Gaetano Stio. Però Stio, resti con noi perché c'è la conferenza stampa, il giovedì c'è la conferenza stampa della Protezione Civile. Borrelli. 18.149 sono ricoverati con sintomi, 1.061 in meno rispetto a ieri. La maggior parte delle persone affette da coronavirus è in isolamento domiciliare senza sintomi o con sintomi lievi e sono 81.708, pari all'80% del totale. Per quanto riguarda le vittime, oggi registriamo purtroppo 285 nuovi deceduti. Come avete potuto vedere dai numeri che vi ho dato, ci avviamo verso una nuova fase dell'evoluzione dell'emergenza e quindi abbiamo deciso di interrompere qui la nostra conferenza stampa che era diventata bisettimanale. Ovviamente non mancheremo di fornire aggiornamenti quotidiani e quelli che abbiamo sempre fornito, e in questa occasione vorrei anche ricordare un po' il bilancio di questo periodo, soprattutto per quello che riguarda l'impegno del Servizio Nazionale della Protezione. Allora riprendo i dati. Oggi sono, allora, col massimo rispetto, perché stiamo parlando sempre di 285 decessi, cosa che ce l'avessero detta 2 mesi fa avremmo parlato di tragedia, ed è una tragedia, di dramma, in un giorno. Però bisogna avere anche così il cinismo della statistica, chiamiamola in questo modo. 285 decessi è un numero che ci porta per la prima volta sotto la soglia dei 300, o meglio, erano stati 260 domenica, ma sappiamo che la domenica i dati sono sempre un po' in ritardo. La media della settimana che si sta per chiudere era sempre sopra i 300, la media della settimana scorsa era tra i 500 e i 400, la media della settimana prima era tra i 600 e i 500. E quindi i 285 sono un numero ancora inaccettabile, ma migliore, è inutile girarci attorno, rispetto ai numeri che abbiamo visto in questi giorni, eccezione fatta, ripeto, solo per domenica 26, quando furono 260, ma ripeto, la domenica ci ha abituato a dati più bassi. Allora, le terapie intensive sono scese di 101 meno di ieri, quindi qui parliamo invece dei numeri, non solo percentuali. 101 meno di ieri, i guariti sono a un nuovo record, 4.693 in più rispetto a ieri. È l'aumento di guariti maggiore dall'inizio dell'epidemia, di cui 2.999, cioè la stragrande maggioranza, si sono registrati in Emilia Romagna. Citiamo sempre i guariti oltre che i ricoverati in terapia intensiva, perché quelli sono il dato più importante, le vittime vanno così a 27.967, calo di record di malati, quindi in un son giorno sono scesi a 101.551, con un decremento di 3.106 in 24 ore. Le percentuali quindi sono: i positivi hanno fatto meno 2,9%, un dato assolutamente positivo, scusatemi. Continuavano a essere negativi gli aumenti dei positivi, però mai così forti, perché ieri hanno fatto meno 548, martedì meno 608, lunedì meno 290, oggi sono meno 3.106. I decessi, 285, sono un più 1%, un dato di incremento molto basso rispetto a tutte le settimane scorse, oltre che come numero anche come percentuale, perché 2 settimane fa si viaggiava con un incremento dei decessi tra il 2 e l'1,8%, la settimana scorsa tra il 2 e l'1%, 1,2%, quindi il dato dell'1% è più che buono. I guariti, ecco perché si parla di record, più 6,6%, e quindi 4.693. Il saldo complessivo porta il totale tra guariti, deceduti, positivi a 205.473, 1.872 in più di ieri. Anche questo è un incremento molto, molto basso, perché si viaggiava su percentuali ben più alte. E ancora i ricoverati hanno fatto meno 1.061, meno 5,5%, anche questo è un buon dato. Ieri i ricoverati avevano fatto meno 581, meno 720 martedì, e le terapie intensive meno 101, meno 4,7%. Ripeto, con tutto il rispetto dovuto ai deceduti, tutti i dati mi sembrano positivi, tutti i dati hanno appunto il segno meno, tranne i deceduti, che sono ancora un più 1%. Ma tutto il resto denota un andamento positivo, e speriamo appunto che da qui si possa anche ripartire per la fase 2 o fase 1 e mezzo. Borrelli ha comunicato che, visto che c'è una nuova fase dell'evoluzione dell'emergenza, quindi interromperanno la conferenza stampa, daranno chiaramente il comunicato stampa ogni giorno. Allora, torniamo invece dopo questi dati con Gaetano Stio, lei ci diceva, attenzione perché però con il tasso praticato tra l'1,3% e 1,7%, il fatto che non paghi per i primi due anni paghi solo gli interessi, beh, può essere molto conveniente prendere questi 25.000 euro. Faccio notare però che 25.000 è la somma, è la soglia massima. Qualcuno mi dice, vabbè, non è che domani vado in banca e chiedo 25.000, deve avere 100.000 euro di ricavi per avere 25.000 euro. Stio. Passata, diciamo, una volta che lei ha fruito dei 25.000 euro col 100% di garanzia, se ha un fatturato superiore, può prenderne altri con 90% di garanzia, col framework temporaneo fino a 72 mesi e può arrivare fino a 5 milioni. Poi chiaramente dipende dalle dimensioni della sua azienda, quindi non è che anche se io ho un'azienda che fattura 200.000 mi prendo i miei 25.000 con il 100% di garanzia e magari i prossimi 25.000 se mi servono li prendo con 90% di garanzia a 72 mesi. Quindi, perché anche lì devono essere sempre 25% del fatturato, certo. No, poi anche alzandosi ci sono anche degli altri indicatori, però ecco sì, diciamo che teniamo in considerazione quello come uno dei parametri, assolutamente. Senta, Stio, da quello che lei ha avuto modo di vedere, la difficoltà più grossa sia sopra i 25.000 euro, cioè per la parte che va fino a 800.000 euro con, dove devono intervenire anche i confidi, perché il 10% è garantito dai confidi, il 90% dallo Stato, e questo vale in parte anche per i 5 milioni? Allora, quello è una parte per le imprese che arrivano fino a 3,2 milioni. Oltre i 3,2 milioni di fatturato, ovviamente la quota coperta dei confidi può essere soggettiva, cioè la puoi chiedere o la puoi non chiedere. È chiaro che l'intervento dei confidi possono in qualche modo allungare un pochettino i tempi, però insomma, presa con i giusti tempi, portando le documentazioni, dando le informazioni, non dovrebbero esserci grossi problemi neanche ad avere la garanzia dei confidi insieme alla garanzia di Stato. Ma i tassi di interesse in quei casi saranno più alti? I tassi di interesse in quel caso dipendono un pochettino dalla trattativa che si fa con la banca e soprattutto normalmente dipendono anche dalla durata. Io ho visto anche durate inferiori ai 72 mesi dove le banche fanno qualcosina in meno di tasso rispetto magari all'ordinario che c'era pre-Covid, diciamo. E come dicono, prego. Perché ovviamente rischiano meno perché è più breve l'ammortamento. Mi dica un'ultima cosa, non dico una dritta perché non è molto, diciamo, professionale, ma dei suggerimenti che lei può dare a chi deve rivolgersi in banca. Cioè, per esempio, immaginavo, ma uno può dire semplicemente motivo, liquidità, cioè mi manca il circolante, non sto fatturando, devo pagare fornitori e altre cose, o è meglio scrivere qualcos'altro? Ma no, cioè, allora, che consigli, se dovesse dare 2-3 consigli a chi ci ascolta sull'approccio da avere con la banca? Per me la prima cosa è che l'imprenditore vada dalla banca che lo conosce, con cui ha rapporti da tanto tempo. La seconda cosa è quello che diceva lei, cioè a questo punto è trovarsi in una condizione in cui bisogna tenere in considerazione più che gli interessi, che per carità vanno bene, incidono, ma bisogna tenere più in considerazione quello che dicevamo prima, cioè utilizziamo tutto il piano di ammortamento disponibile, così la rata è un pochettino più bassa. Questa è la cosa fondamentale. Dopodiché che cosa si deve fare? Semplicemente si deve portarsi dietro, se è possibile, visto che si trovano sul sito di Mediocredito Centrale, io mi porterei dietro l'allegato 4bis che è facile da compilare, posso arrivare con l'allegato 4bis in banca già compilato, posso portarmi dietro magari gli ultimi due bilanci o le ultime due dichiarazioni dei redditi e magari un certificato camerale. Tutto questo facilita molto l'istruttoria in banca. Però ecco, ripeto, per me la cosa più importante è che gli imprenditori tengono in considerazione veramente la loro capacità di restituzione della rata, perché quello è veramente la cosa più importante. È meglio non farsi ingolosire magari dal prendere qualche migliaio di euro in più o qualche decina di migliaia di euro in più, se stiamo parlando di finanziamenti oltre 25.000, ma di farci un calcolo corretto di quello che la sua azienda può sopportare in termini di rata da pagare. Allora, chiaro, è importante anche questo consiglio, l'ultima parte del suo consiglio. Grazie anche a Gaetano Stio, presidente del gruppo NSA. Andiamo sul traffico e poi alla Lagarde della Banca Centrale Europea. Focus Economia. Decisive and targeted policy measures that we have taken since early March. Le misure decise e mirate che abbiamo adottato dall'inizio di marzo hanno fornito un sostegno cruciale all'economia dell'area dell'euro e in particolare ai settori più esposti alla crisi. In particolare, le nostre misure supportano le condizioni di liquidità e contribuiscono a sostenere il flusso di credito a famiglie e imprese, in particolare le piccole e medie imprese, e a mantenere condizioni di finanziamento favorevoli per tutti i settori. Accogliamo con favore le misure adottate dai governi dell'area dell'euro e dalle istituzioni europee per garantire risorse sanitarie sufficienti e fornire sostegno alle imprese, ai lavoratori e alle famiglie. Allo stesso tempo, sono necessari sforzi ambiziosi e continui, in particolare attraverso un'azione politica congiunta e coordinata per evitare rischi di ribasso e sostenere la ripresa. In linea con il nostro mandato, il Consiglio direttivo è determinato a continuare a sostenere le famiglie e le imprese di fronte all'attuale crisi economica e alla maggiore incertezza, al fine di salvaguardare la stabilità dei prezzi a medio termine. In order to safeguard medium-term price stability. Così Christine Lagarde oggi nell'annunciare nuove misure e tassi a zero chiaramente per quello che riguarda la Banca Centrale Europea. Vorrei fare ascoltare anche, nel ringraziare intanto il professor Franco Bruni che insegna economia monetaria internazionale all'Università Bocconi di Milano, buonasera, e vicepresidente dell'ISPI anche. Sentiamo anche la nuova liquidità, taglio dei tassi per il TLTRO3. Pronto a aumentare il quantitative easing, l'acquisto di titoli di Stato per affrontare la pandemia. Allora, la Lagarde che stima una caduta dell'economia mai vista fra il 5 e il 12%. L'area dell'euro sta affrontando una contrazione economica di entità e velocità senza precedenti in tempo di pace. Le misure per contenere la diffusione del coronavirus hanno in gran parte fermato l'attività economica in tutti i paesi dell'area euro e in tutto il mondo. Gli indicatori della fiducia di consumatori e imprese sono precipitati, suggerendo una forte contrazione della crescita economica e un profondo deterioramento delle condizioni del mercato del lavoro. Data l'elevata incertezza, gli scenari di crescita suggeriscono che quest'anno il PIL dell'area euro potrebbe scendere tra il 5% e il 12%, a seconda della durata delle misure di contenimento e della risposta delle autorità per mitigare lo shock economico. Man mano che le misure di contenimento vengono gradualmente revocate, questi scenari prevedono una ripresa dell'attività economica, sebbene la sua velocità e portata rimangano altamente incerte. Although its speed and scale remain highly uncertain. Allora, professor Bruni, prima di avere un suo commento complessivo, oggi alla Lagarde non ha fatto nessuna gaffe, quindi insomma, c'è un passaggio che abbiamo isolato che interessa particolarmente l'Italia, perché ha detto non tollereremo alcun rischio di frammentazione dell'area euro, rispondendo a una domanda che gli è stata posta se la BCE stia facendo abbastanza per l'Italia. We will not tollerate any risk of fragmentation. Non tollereremo alcun rischio di frammentazione dell'eurozona. Vogliamo assicurare che ci sia molta liquidità, che il credito arrivi effettivamente all'economia e che le politiche di trasmissione dell'attività monetaria siano efficaci. Faremo questo per qualsiasi paese abbia bisogno di tutta la nostra forza. Noi siamo determinati a usare tutti gli strumenti a nostra disposizione con la massima flessibilità. As I just indicated. Allora, professor Bruni, la Lagarde rispetto a quella famosa gaffe ha corretto il tiro e anche quest'ultima frase era molto netta. Devo dire che la Banca Centrale Europea in questo momento è l'aiuto più forte che stiamo ricevendo tutti, perché tiene i tassi bassi e acquista titoli di Stato anche e soprattutto italiani. Il suo commento però prima di tutto. Beh, per cominciare da quest'ultima frase, È chiaro che questo è uno shock di cui tutti sottolineano la simmetria, ma che in realtà è molto asimmetrico, perché le condizioni dei paesi sono diverse, la fragilità è diversa, e potrebbe diventare molto asimmetrico man mano che si va in là, se per esempio il nostro paese non dovesse riuscire a essere credibile nei confronti dei mercati nel vendere i suoi titoli, e soprattutto da parte delle nostre banche nel acquisire la liquidità dal mercato interbancario europeo. Quindi questi provvedimenti che vanno direttamente alle banche, saltando i confini, e che assicurano comunque liquidità in modo simmetrico anche ai paesi in difficoltà sul mercato, sono molto importanti. Quindi per noi sono molto importanti. Se dovesse esserci una fuga di capitali dalla periferia dell'euro, quella va affrontata con strumenti che assomigliano di più a quelli del 2010, 11, 12, insomma, che non a questi, diciamo, molto provvedimenti molto uguali per tutti per il Covid. Quindi lei dice attenzione, perché adesso siamo tutti uguali, tutti travolti dal coronavirus, vedo esatto. Che tra l'altro, ma fra più passerà il tempo, più la situazione, ci immaginiamo, si stabilizzerà, più si inizierà a fare distinguo, un po' come nella fattoria degli animali, tutti uguali, per alcuni più uguali di altri. Ecco, mi dica. Poi c'è l'aspetto della previsione che su cui siete soffermati nel riprodurre la guerra. Io non devo dire la verità, non sono molto né spaventato né impressionato dalle previsioni di quest'anno. Quello che mi interessa di più è vedere se almeno un pochino il Fondo Monetario ha ragione quando prevede una cosa a V, per cui l'anno venturo riprende abbastanza rapidamente. Però ho visto che oggi molti dicono che la V ce la possiamo scordare. Esatto, quindi se fosse vero almeno un pochino quello, le cose andrebbero veramente sciccamente. Oppure invece se c'è una U, e se questa U è quanto lunga è. Ma io devo dire che sono preoccupato ancora di più di un'altra cosa, cioè di quando, comunque sia lunga la base della U, quantunque arrivi la ripresa, io ho paura che a quel punto, quando sarà finito la scusa del Covid, non ci sarà più nessun problema sanitario e nessun problema economico attribuibile ragionevolmente al Covid. A quel punto le economie cresceranno come crescevano prima, diciamo, dello shock presumibilmente, e noi sappiamo benissimo che non crescevamo abbastanza, non solo noi, diversi altri paesi, c'erano ancora un sacco di problemi strutturali. Ecco, io ho paura che a quel punto, invece che intervenire con le riforme eccetera e con migliorando la produttività, si va avanti per infinito a chiedere alla Lagarde di stampare la moneta, a chiedere alla Germania di finanziare chissà cosa. Cioè, qui dobbiamo renderci conto che dobbiamo cogliere l'occasione di questa crisi anche per riformare gradualmente l'economia. E quindi anche quella... questi aiuti dobbiamo essere un po' selettivi, no? Ma guardi, è quello che adesso chiedeva anche oggi Confindustria, perché il presidente di Confindustria Bonomi ha presentato la squadra della nuova Confindustria che lui andrà a presiedere. Attenzione, qui arriviamo quasi alla fase 3, e cioè una volta che sarà, diciamo, le economie potranno ripartire, tu dovrai aver approntato delle modifiche, penso al codice degli appalti per far ripartire gli investimenti, penso alla sburocratizzazione, penso alle agevolazioni anche per le imprese, perché non potrai più continuare, se ho ben capito il suo ragionamento, a dire beh, ci servono ancora i soldi della BCE, ci servono ancora i soldi della Commissione Europea. Se sarà finita l'emergenza, cosa che tutti noi ci auguriamo, ognuno poi dovrà tornare prima possibile a camminare con le sue gambe. Tra l'altro, da questo punto di vista, appunto, tutti stiamo cercando di capire, guardando un po' più in là. So che molti sono interessati alla fase 2, 4 maggio piuttosto che 18 maggio, visto che adesso l'Alto Adige tira dritto, l'11 maggio aprono i parrucchieri, i bar, parrucchieri, barbieri, statisti, e il 25 maggio potranno riaprire gli alberghi e gli impianti a fune. Vabbè, ci andranno solo loro, visto che noi non possiamo spostarci da nessuna parte in mezzo alle regioni. Comunque vediamo se poi il governo su questo però interverrà. Grazie anche a Franco Bruni in collegamento con noi. A me non resta che augurare a tutti voi in ascolto un buon fine settimana, primo maggio strano, stranissimo, L'invito è restare sempre comunque a casa fino al 4, poi anche la Lombardia, se ben vedo, dovrebbe aprire, ma è già presente nel decreto, ha la possibilità di distanziarsi più di 200 metri da casa, l'utilizzo dei parchi e quant'altro. Noi ci risentiamo lunedì dalle 17 in poi. Grazie a Barbara Bianchi e Maria Sole Lisciandro, come sempre, per l'assistenza in redazione e in regia.